Il treno 3, 4, 5, 6 in partenza da Bergamo è diretto a Milano Centrale, non partirà perché il controllore è incazzato, la sua ragazza non gliel'ha data ieri sera. Catania. Stazione di Catania, il treno ha maturato 20 minuti di ritardo per presenza elefanti sui binari. Si avvisano i signori passeggeri che il treno espresso 5, 4, 3, 2 da Roma Termini diretto a Torino Porta Nuova è in partenza dal binario 5. È pieno zeppo di immigrati di 135 nazionalità diverse e donne di colore con sacchi in equilibrio sulla testa. È un'esperienza unica e va provata. Buon viaggio! Si avvisano i passeggeri che il treno espresso notturno da Roma Termini a Milano Centrale è stato assaltato dagli indiani. Arriverà con 3 passeggeri in meno e 40 minuti di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia Operazione Trasparenza. I bagni sui treni avranno le pareti di vetro perché costano meno. Grazie. Trenitalia informa i signori passeggeri che se si sommano i ritardi del 2009 si ottiene un numero pari alla circonferenza del Sole. Grazie. Trenitalia informa i passeggeri che le stazioni e i treni sono puliti e mantenuti nel decoro da, ecco non saprei ma penso da Pinocchio e Geppetto. Grazie. Trenitalia avvisa gli ultras presenti nella carrozza 7 che è vietato sparare razzi contro la Polfer e non è carino dire le parolacce nelle stazioni. Grazie. Si avvisano i piccioni presenti sul binario 3 che è in transito l'Eurostar 2, 3, 5, 1 per Milano Centrale, svolazzate via o sarete tranciati senza pietà. Avvisiamo i signori passeggeri in attesa al binario 3 che il treno Intercity proveniente da Salerno è diretto a Roma Termini, non fermerà a Napoli Centrale. Perché ha saputo che ci sono 3.000 tifosi pronti a salire. Si è spaventato ed ha cambiato tragitto. Si informano i signori passeggeri che sono in vendita presso le biglietterie ed i chioschi autorizzati. Bombe al napalm. Per disinfettare i sedili. Grazie. Trenitalia avvisa i signori passeggeri che anche in Burundi ci prendono per il culo. Viva Trenitalia!